Sì, pronto, ci sei? Ecco, perfetto. Allora, abbiamo al telefono Giovanni Russo Spena, insomma un nome che chi ascolta la radio conosce abbastanza bene. Lo chiamiamo proprio in relazione oggi a questo convegno che la radio e la campagna 10% organizzano per venerdì prossimo, e fra l'altro tu sei avvocato anche di alcuni ragazzi di Teramo che sono accusati. Sì, io ho seguito alcuni ragazzi di Teramo. Esatto, sì. Va bene. Allora, intanto del gruppo antifascista di Teramo. Sì, hai ricevuto il compagno del circolo di Rifondazione Comunista che sta in carcere, in isolamento, adesso è stato trasferito a Viterbo. Insomma, una situazione molto grave. Sì, l'abbiamo seguita con imputazioni gravissime. Sì, imputazioni gravissime. Senti, allora tu hai letto ovviamente il documento che insomma ha accompagnato l'indizione di questo convegno. Sì. E se ci vuoi dire intanto qualcosa, sì, poi magari interloquiamo. Il documento proprio nel suo impianto, ma anche nelle sue motivazioni. E sottolineo alcuni punti soltanto, insomma gli altri sono punti su cui appunto largamente concordo come analisi. Il primo è che giustamente voi dite, io piano giuridico ve lo confermo, reato di devastazione e saccheggio, no, sempre più tra l'altro utilizzato, non solamente nel caso specifico, ma sempre in maniera sempre più larga, che è, non dimentichiamo, un reato fascista contro gli oppositori politici, cioè è stato usato sempre, introdotto appunto da Mussolini, dal fascismo che lo volle contro gli oppositori politici. Oggi, in una fase appunto di crisi del capitale, di crisi della globalizzazione, di democrazia autoritaria, questa democrazia sempre che in quanto è in crisi è sempre più autoritaria, le due cose stanno insieme, viene di nuovo usato a man bassa. Le pene poi giustamente voi dite sono pene molto pesanti, sproporzionate rispetto agli stessi, io dico adesso guardando le carte giudiziarie, rispetto agli stessi fatti contestati, che sono fatti praticamente che concernono la resistenza al pubblico ufficiale, e appunto, dicevamo prima, i militanti di Azione Antifascista di Teramo, questa accusa di devastazione e saccheggio ha portato poi purtroppo in serie di giudizi a condanne a 6 anni, stiamo parlando di condanne a 6 anni, e io vorrei appunto che si facesse il confronto con tutte le condanne che avvengono invece per reati molto più gravi. Tenete conto che c'era il rito abbreviato, oltre ovviamente poi a 60.000 euro di risarcimento dei danni, che è un po' una beffa, e tra l'altro con una condizione carceraria, questo è dovuto al senso di impunità e di immunità che le forze dell'ordine hanno, con una condizione carceraria soprattutto per chi era un po' ritenuto il coordinatore di Azione Antifascista, appunto il compagno del nostro compagno, scusate, c'era un ambulante, compagno del nostro circolo di Teramo, che è stato prima spostato da Teramo, dove poteva mandarlo a trovare, i compagni potevano, pur con qualche difficoltà, con ricerca di permessi, andarlo a trovare, la fidanzata, la compagna, la famiglia, è stata spostata a Viterbo, dove è stato lungamente in isolamento. Voglio dire, il carcere di Viterbo si sa che è un carcere di massima sicurezza, un carcere molto duro. Quindi c'è una sorta, quindi il reato di devastazione e saccheggio è usato come una sorta di rappresaglia, diciamo, da parte dello Stato. Io voglio solo ricordare, per uscire dal tema specifico dell'azione di cui stiamo parlando, che però la cosa è molto diffusa, non dimentichiamo i Notav, la Val di Susa è un'area militarizzata e praticamente in questi giorni si parla addirittura da parte del nuovo ministro dell'interno e da parte del governo di larghe intese, si parla di atti terroristici. Quindi noi ci aspettiamo anche come costituzionalisti, come avvocati, un'escalation durissima, ancora superiore a quella attuata negli ultimi anni sui Notav. Io sono napoletano, basta ricordare che il raid dei disoccupati organizzati dei bros viene utilizzato una sorta di imposizione di scelte politiche all'amministrazione regionale, per cui vengono considerati quasi atti di peculato, di corruzione, di concussione, come se qualsiasi sciopero, qualsiasi picchetto, qualsiasi azione quindi illegale fra virgolette, quindi azione di disobbedienza rispetto alle leggi ingiuste, potesse essere considerata un'azione delinquenziale. Quindi, come dire, ti tolgono anche il carattere di azione politica e la considerano un'azione delinquenziale. La stessa cosa per le lotte contro le discariche. Insomma, io penso che il salto di qualità stia qui, cioè quella di non riconoscere più la politicità delle lotte, facendole diventare atti delinquenziali, criminali, con l'uso di forme di reato quali devastazione e saccheggio, che quindi parificano, diciamo, i militanti politici anticapitalisti che si ribellano, che si indignano, parificandoli praticamente a dei delinquenti comuni. Questo è tipico di quello che appunto Eligio Resta, che sarà uno bravissimo, uno dei relatori del convegno del 24, chiama Stato penale globale, che opprime la libertà del conflitto e quindi una società disciplinare. Ecco, io credo che se noi lo leghiamo poi al reato di tortura, al fatto che non si riesce a imporre nemmeno dopo Genova che gli agenti di polizia penitenziaria come carabinieri eccetera portino la targhetta identificativa come avviene in tutti i paesi europei, insomma io credo che questo comporta anche una specificità repressiva italiana, dove praticamente stragismo e intreccio fra stragismo e potere, quello che Gramsci chiamava il sovversivismo dei ceti dirigenti, mi sembra in questa crisi sempre più forte, e quindi deve vedere, quindi il convegno cade benissimo perché deve vedere una nuova attenzione anche delle forze alternative anticapitaliste su temi che riguardano proprio la libertà del conflitto e la libertà di vita, insomma. Ecco Giovanni, se permetti una domanda volevamo farti. In questo punto centrale che tu hai evidenziato di ridurre tutto a delinquenza comune, ciò che ha connotati politici, e volendo individuare in una scala proprio di responsabilità i soggetti maggiormente responsabili, tra individuandoli e nelle istituzioni e nella classe politica, insomma tu come li collocheresti? Io penso che da un lato ci sia una, sto pensando diciamo alla lotta No Tab, no? Che è una lotta, o potrei pensare ai disoccupati, insomma che sono lotte emblematiche perché sono lotte che riguardano non soltanto diciamo noi militanti politici oppure le cosiddette avanguardie come le chiamiamo, ci piace ancora chiamarlo oggi, ma che riguardano comunità intere, popoli. Ecco, io credo che lì ci sia un raccordo certamente fra i poteri economici con la destra che li rappresenta, ma pensiamo ai Notav, pensiamo al deputato del PD Esposito che chiede che vengano incriminati i ragazzi per terrorismo tugur. Insomma, io credo che ci sia una grossa società disciplinare che ha oggi il Partito Democratico, che ha oggi insomma l'Unità Nazionale, quindi insieme PDL e PD come architrave proprio, cioè un potere economico. Caselli ha parlato, che trova nell'Unità Nazionale, come deve essere in Germania, trova il potere repressivo in tutte le sue articolazioni politiche. Caselli ha parlato proprio di guerra in merito al Notab, no? Appunto. Quando si parla di guerra vuol dire che si usa smittianamente l'idea dello stato di eccezione, che non dimentichiamo poi portò al nazismo, e si parla di stato di eccezione, che vuol dire che tutte le regole, anche le regole dello Stato di diritto, insomma le regole costituzionali, che non sono niente di bolscevico, insomma comunque sono regole diciamo di civiltà giuridica, possono essere messe fra parentesi e calpestate dal fatto che ci troviamo in uno stato di eccezione, appunto, per dirlo con Smith, o comunque da uno stato emergenziale. Noi già abbiamo conosciuto a fine degli anni 70 altri periodi storici in cui in nome dell'emergenza sono stati travolti gli stessi articoli e le stesse regole dello Stato di diritto. Io temo che noi ci avviamo insomma verso una fase molto aspra, molto cruda da questo punto di vista, perché cresceranno le lotte, sono lotte magari un po' più spurie e frammentate e non coperte sindacalmente, sono la rappresentanza politica di sinistra è molto debole, la sinistra intendo dire alternativa, anticapitalista, è molto debole. Quindi non c'è, pensate a quello che è successo con i pastori sardi, no? Oppure con le discariche in alcune zone del sud. È evidente che lotte che non hanno copertura nemmeno per quel che è potuto servire, insomma, di denuncia, un po' di parlamentari che magari vanno nei cortei, vanno in carcere a trovare, adesso io per andare a trovare il compagno a Viterbo ho dovuto farmi accompagnare da un consigliere regionale, oppure devi chiedere se trovi qualche deputato radicale o grillino, cosa non facile, che ti porta in carcere. Insomma, diciamo che anche una pattuglietta di parlamentari che facevano il proprio dovere poteva essere utile. Oggi non hai proprio la copertura, non ha nessuna copertura istituzionale, quindi ovviamente, come dire, le forme organizzative delle lotte devono essere anche più attente, più auto-organizzate, insomma, si devono autogestire. Bene Giovanni, noi ti ringraziamo e diciamo ti aspettiamo ovviamente con piacere al convegno del 24. Perché da tempo ho fissato con i compagni del centro sociale e anche in pericolo di sgombro a Pisa il 24 con Auletta e altri compagni, c'è una manifestazione a Pisa a cui sono invitato da tempo, quindi comunque se l'appuntamento di Pisa verrà rinviato ovviamente mi fa piacere essere al convegno. D'accordo, grazie per la corrispondenza e buon proseguimento. Ciao. Said a lot of one but running high tonight. Cause